Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io avevo 10 anni ed era il primo mondiale della mia vita. Il precedente mondiale, quello del Cile, non so neanche se fosse andato in TV. Fu una partita brutta, segnata da un calciatore che di mestiere faceva il dentista. Si chiamava Pak Do-ik, che segnò al 41esimo del secondo tempo. Siamo in Inghilterra, sono i mondiali del 1966 e chi parla è Gigi Riva. Nella tribuna dell'Harrison Park di Middlesbrough ero seduto vicino a Burnic. Eravamo spostati verso destra, quasi di fronte alla nostra area di rigore. Avevamo un palo davanti, tipico dei vecchi stadi inglesi. Ma il tiro di Pak Do-ik lo vedemmo benissimo. Lo vedemmo partire e purtroppo lo vedemmo anche arrivare. Albertosi si protese inutilmente verso la sua destra. Pak Do-ik aveva girato Landini e aveva indovinato una sciabolata micidiale. Landini, curiosamente, aveva il numero 11, il mio numero. Durante quei mondiali in Inghilterra nel 66, la nostra nazionale era in ritiro nella scuola di agricoltura di Durham, un grande edificio a due ali che si prestava benissimo alle divisioni politiche che erano esplose insieme al gruppo. In una delle ali dormivano i potenti, quelli che facevano il bello e il cattivo tempo, Mazzola, Rivera, Bulgarelli, Albertosi, quelli che Fabbri, il CT, subiva. Dall'altra parte invece c'erano, oltre a me e a Bertini, coloro che contavano poco o nulla. L'unica maniera che avevamo di sfogarci era quella di umiliare i nostri, chiamiamoli, rivali in allenamento. Le partitelle le vincevamo sempre noi della seconda nazionale. E io segnavo. Ero tanto in forma quanto imbestialito. Al contrario di Mazzola e di Rivera, che dal CT venivano coccolati moltissimo, io non ho mai ritenuto Fabbri un grande commissario tecnico. Tutt'al più un buon preparatore, ma come si comportò da galantuomo. Il giorno dopo, benché distrutto, mi prese in disparte e mi chiese scusa. Mi disse: se avessi avuto il coraggio di farti giocare, ora non saremmo qui. E le stesse scuse me le ripeté qualche anno dopo, quando, per uno strano caso della vita, diventò il mio allenatore al Cagliari. Ma ormai, a quel punto, i nostri rapporti di forza erano diventati molto, molto diversi. Quell'amarezza, l'amarezza di una grande occasione personale perduta, mi rimane ancora, ma quella nazionale non sarebbe andata comunque lontano. Se avessimo passato il turno, ci saremmo scontrati col Portogallo di Eusebio e credo proprio che il nostro mondiale, viste le premesse, sarebbe finita lì. Troppe divisioni, troppe incomprensioni, troppe inimicizie. Corso e Bedin praticamente rifiutarono le convocazioni pur di evitare convivenze sgradevoli e non vennero squalificati per il rifiuto perché io ero del Cagliari, mentre loro erano dell'Inter. Il mondo, credetemi, non è mai cambiato. Loro invece sono entrati in campo tutti insieme con un pallone a testa, si sono messi a metà campo e hanno cominciato a buttare il pallone in alto e a fare delle grandi rovesciate. Noi abbiamo guardati e ci siamo messi a ridere, dice: ma chi sono questi? Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, signorine Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. E noi siamo partiti benissimo, potevamo fare subito 3 gol. Berani. Grande falso del portiere coreano Lin Chan-myung. Berani si era trovato da solo davanti al portiere 4-5 volte. Rivera, cross. Mancata del soffio soltanto alla rete. Abbiamo sbagliato tanti di quei gol che è stata una cosa incredibile. Berani, ancora una volta il portiere si è sentito felicemente piazzare. Dopo il terzo e il quarto gol che sbagli cominci a pensare che la partita è stregata. Tutte queste voci arrivano da una partita, da un'epoca un po' lontana. È il 1966, siamo in Inghilterra, sono i mondiali ovviamente perché parliamo di mondiali in questa settimana e quella di cui parlano è una partita, Italia-Corea, che rappresenta da sempre una delle più grandi disfatte della nostra nazionale. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi raccontiamo una storia, come sempre facciamo, che è la storia di Gennaro. Gennaro ci ha mandato la sua storia, ma non farà parte della puntata perché non facciamo faceva in tempo a essere con noi, e quindi noi raccontiamo la sua storia e poi lo facciamo attraverso le testimonianze anche di chi c'era, di chi c'era e di chi non c'era. Avete sentito in questo contributo le varie voci di giocatori tra Albertosi, Sandro Mazzola, che hanno giocato quella partita stregata, e invece le prime parole che vi ho letto sono tratte da un'intervista che ho trovato su un sito che si chiama Storie di Calcio, fatta a Gigi Riva, che invece fu il grande escluso di quella partita e insieme a lui a altri, che se la vide appunto sugli spalti. Noi per oggi parliamo in realtà delle grandi disfatte, perché è vero che c'è stata anche un'altra Italia-Corea, e più tardi vi racconterò di quella che tutti noi ci ricordiamo, quella del 2002, quella che abbiamo perso malamente per colpa di un arbitro che era Byron Moreno. Ma tutti noi abbiamo avuto un po' la nostra Corea, cioè da allora, da quella partita, parlare di Corea significa parlare di disfatta. 349-238-6666. Sandro infatti scrive: la mia Corea è stato il matrimonio fallito miseramente, e poi non contento un'altra Corea, in un'altra nazione con un'altra donna. Ora sono tornato in Italia da solo e va molto meglio. Alessia, la mia Corea è stato il torneo di tennis del mio circolo a 11 anni, ero la favorita di tutte, ma poi arrivò una che inaspettatamente fece saltare il banco, ma aveva ragione lei, perché si chiamava e si chiama Sara Errani. Alessia evidentemente ha avuto la fortuna di giocarsela. 349-238-6666. Due Italia-Corea, quella del 66 e quella del 2002, ma soprattutto la Corea di tutti noi. La partita era Italia-Corea dei mondiali del 1966. Erano i mondiali d'Inghilterra, quelli che era scritto che li dovevano vincere i padroni di casa. L'Italia se la giocava a modo suo, nonostante il CT non fosse proprio uno di spessore. Edmondo Fabbri, detto Mondino, non aveva mai giocato una partita di livello internazionale. Aveva al massimo portato il Mantova dalla Serie C alla Serie A. In quegli anni il Bologna aveva un'ottima squadra, con grandi campioni come Bulgarelli, Pascutti, Fogli. Ma c'era anche una certa grande Inter che tra le sue file faceva giocare Corso, Picchi, Mazzola e tanti altri campioni. Ma il provincialismo di Fabbri ha il sopravvento sulla ragione. Inoltre c'è l'aggravante che il tecnico di Castel Bolognese ha un debole per i rossoblù e un innato odio per la squadra del mago Herrera. Quindi, invece di prendere l'intero blocco nerazzurro in nazionale, mescola le carte in tavola e farà esclusioni a dir poco sorprendenti. Io avevo 10 anni ed era il mio primo mondiale. Il primo mondiale della mia vita, perché il precedente mondiale, quello del Cile, non so neanche se fosse andato in TV. Quella fu una partita brutta. Italia-Corea, segnata da un calciatore che di mestiere faceva il dentista. Si chiamava Pak Duk Ik, che segnò al 41esimo del secondo tempo. Ricordo la rabbia incontenibile ed il mio pianto alla sconfitta. Uscii fuori al balcone di casa e mio padre mi raggiunse, e cosa insolita per un uomo schivo e poco espansivo, mi abbracciò e consolò il mio dolore. Quello fu l'ultimo mondiale che condivisi con mio padre. Dopo qualche anno morì, ma mi ha insegnato ad essere sempre vicino ai miei figli e a sostenerli nei momenti tristi. Anche ora, che hanno 26 e 27 anni, e continuo a condividere con loro un po' tutto. E questo grazie a quella sensazione di tanti anni fa. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando si canta todo mundo bole, quando si canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando si canta todo mundo bole. 19 luglio, Italia-Corea 0-1. Sono i mondiali d'Inghilterra del 1966. Questa è la partita a cui si riferisce Gennaro nella sua storia dedicata ai mondiali. Da allora, da quella partita, spesso le partite che sembrano facili e rischiano di finire male sono chiamate la Corea o il rischio di una nuova Corea. Anche quelli della mia generazione hanno avuto la propria Corea, una Corea vera e propria. 18 giugno 2002, Italia-Corea 1-2, mondiali di Corea e Giappone. Sono gli ottavi di finale e in panchina c'è Trapattoni e la sua acqua santa. In breve succede di tutto. Il rigore alla Corea dopo 4 minuti, il gol di Vieri, il pareggio all'88esimo, i supplementari, l'espulsione di Totti e il golden goal a 3 minuti prima dei rigori, ma su tutti l'arbitro Byron Moreno. Ognuno, come tutte le partite, la ricorda a modo suo, in base al divano su cui si trovava e a chi aveva a fianco. Ma io ricordo molto bene l'articolo del giorno dopo di Gianni Mura, che tra i pochi non se la prendeva con l'arbitro. Giugno 2002, a casa così brucia davvero e fa comodo dire che è stato un furto. Lo è stato. Se un giocatore, Totti, viene espulso per una simulazione che non c'è, e se un altro, Tommasi, segna un gol valido ma lo danno in fuorigioco. Se questo è il quinto gol valido annullato in 3 partite, non occorre essere un dietrologo per dire che c'è puzza di bruciato. Ma è stato anche come girare in auto in una zona malfamata con un Rolex al polso e il braccio fuori dal finestrino. Se ci si mette in questa condizione, lo scippo è più agevole. L'Italia purtroppo si è messa in questa condizione. E per questo Moreno, l'arbitro, che pure ha sbagliato, diventa un grande lenzuolo steso su tante colpe, su altre colpe, omissioni, piccoli e grandi errori. È un trapattone agitatissimo, mai visto così. Scalcia bottigliette, discute in continuazione col quarto uomo. Nei momenti chiave prende a pugni la plastica dietro la quale stanno gli uomini FIFA. Un po' di calma probabilmente non guasterebbe. È vero che si gioca in uno stadio pieno di tifosi della Corea, ma garbati, non fischiano l'inno, non insultano. Questa tensione però si comunica alla panchina, ai giocatori, che si sentono perseguitati prima ancora che Moreno indirizzi la partita su un altro binario. Sbaglia nel secondo tempo non ammonendo un coreano per gomitata del Piero, sarebbe il secondo giallo, ma non è il solo a sbagliare. Il segnale arriva dopo un'ora. Gattuso per Del Piero, è la campana che risveglia i morti, cioè i coreani, ancora sotto shock per il rigore fallito da Han e ben parato da Buffon. Dilivio per Zambrotta, toccato duro, e più in là una mossa logica. Prima dei supplementari Moreno ha fatto l'arbitro, dopo ha deciso chi doveva continuare. Ma con tutto quello che ha combinato non è lui che sta a guardare Han quando incorna, è Maldini. Spiace che il grande capitano concluda così la sua carriera azzurra. È stata una partita crudele all'inizio, rigore dopo 4 minuti e alla fine pareggio all'88esimo. È stata emozionante la parata di Buffon all'angolino basso all'11esimo del secondo tempo, l'espulsione di Totti al 12esimo, il gol di Tommasi negato, tutto nei tempi supplementari, e l'occasione d'oro per Gattuso al 7° minuto e poi il golden goal all'11esimo. A casa così brucia, davvero. Adesso, dopo il regalo imprevisto di Edison Mendes e un folle amore per l'Ecuador, il fischietto di Byron Moreno è al centro di profonde indignazioni popolari. Si scoprono pochissimo amati i turisti coreani in Italia. A mente più fredda, sarà il caso di ricordare che in 4 partite l'Italia ha battuto solo l'Ecuador. Ha perso con la Croazia, ha pareggiato a fatica col Messico, ha perso con la Corea una partita già vinta. È una delle vittime, col Belgio, degli arbitri, ma ha molti limiti. Non contiamo nulla, si dice, lo sapevamo già. Esistono intrecci politico-economici in cui non è obbligatorio entrare, ma sapere che esistono sì. Il presidente federale Carraro ha detto che parlerà una volta tornato in Italia. Benissimo, parlerà in ritardo, come in ritardo è partito per il Giappone. Forse al suo posto io mi dimetterei. Un dirigente di lungo corso deve sapere che anche particolari sono importanti e certe presenze sono doverose. Ma è tutto il mondo del nostro calcio a dover recitare un mea culpa per questa spedizione fallimento. La credibilità, il peso politico non si comprano al mercato, si conquistano lavorando seriamente. Per anni la federazione è stata un guscio vuoto e la politica sportiva in Italia ridotta agli scontri Sensi Galliani o Moratti Giraudo. Da mesi non ci si mette d'accordo sul presidente di Lega. I conti si impennano, i calciatori sono i più pagati al mondo. E allora ricordiamoci che non è solo Moreno a rispedire a casa l'Italia, ma anche Han, riserva del Perugia, che non gli rinnoverà il contratto. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. 3899-2386-666. Insomma, quella partita è una partita che alcuni si ricordano, quantomeno perché Italia-Corea, che poi è stata replicata nel 2002 ed è finita in altro modo, come abbiamo appena sentito da quest'articolo di Gianni Mura, quell'Italia-Corea là, quella del 66, è stata considerata una disfatta al punto che spesso si dice quella è la mia Corea, evitiamo di cadere in un'altra Corea, perché è una partita che è passata alla storia. Ci sono molte persone che se la ricordano, ovviamente, molte persone che l'hanno vista, l'hanno ascoltata alla radio o l'hanno raccontata come giornalisti. Non ci sono tantissimi, però, invece, che quella partita l'hanno giocata. Uno di questi è Sandro Mazzola e abbiamo il piacere di averlo con noi. Signor Mazzola, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Grazie mille per aver raccolto l'invito, per una storia come questa, che immagino, insomma, lei si ricordi, ma che non siano dei ricordi migliori della sua vita. No, sicuramente è uno dei ricordi più brutti della mia storia del calcio, che ha avuto fuori tante cose belle, ma non è stata raccontata secondo me nel modo giusto, perché noi abbiamo giocato in 10 tutta la partita. Poi infatti, con la Corea tanto bisogna vincere, però non è vero. Però, esatto, signor Mazzola, visto che ad esempio per quelli come me che sono nati 10 anni dopo e per tutti quelli che non se la ricordano, la raccontiamo un po' meglio questa partita, da dove arrivavamo, in che condizione era l'Italia in quegli anni? No, beh, l'Italia dopo tanti anni di buio calcistico finalmente aveva avuto un allenatore, Edmondo Fabbri, che aveva voluto puntare sui giovani, fino a che non arrivava lui giocavano gli oriundi, cioè gli stranieri, certo, che avevano anche giocato in altre nazionali, in Sud America e dappertutto, lui invece cambiò tutto, no, solo italiani, eccetto se c'è un sudamericano che non ha giocato nella sua nazionale, figlio di italiani, allora può giocare, okay. Questo era Sormani, tra l'altro, cioè certo, davanti. Certo, però è vero che si diceva che c'erano delle fratture all'interno della squadra, che c'erano di fatto due fazioni che non andavano d'accordo, cioè sono dicerie, no, queste? Non è affatto vero, non è okay, affatto vero, c'erano due gruppi, uno era il gruppo Inter, uno era il gruppo Bologna, che era un gruppo, erano le due squadre che si giocavano allo scudetto in quegli anni. Però non è che ci fossero fratture, perché eravamo tutti giovani amici. E invece la storia di questo dentista coreano, questo Park Do-hik, questo era veramente un dentista lui? Ma da quello che noi abbiamo saputo dopo, perché prima non sapevamo niente di questi, sapevamo solo che erano stati 3 mesi di ritiro, poi il nostro allenatore, Edmondo Fabbri, li mandò a vedere, come andava a vedere gli avversari che dovevamo incontrare, e dopo la prima partita era Ferruccio Valcareggi che andò a vedere e disse no, è un disastro, non sa giocare, eccetera, eccetera. Poi andò a vedere la seconda partita e tornò e disse oh, sembravano altri. Correvano come dei matti, facevano gli scambi, quando saltavano, siccome erano piccoli, avevano uno che si metteva davanti, l'altro metteva le due mani sulle spalle e davano un lancio per saltare. Poi quanto andò avanti la Corea in quel mondiale? Come? Quanto andò avanti la Corea in quel mondiale? Uscì ai quarti? No, uscì ai quarti, ma uscì, il primo tempo vinceva 3-0 contro il Portogallo del grande Eusebio, al che quando io lo sentii dissi cavoli, allora adesso ci rivedono un po' tutta la storia. Poi invece Eusebio si arrabbiò e vinse il Portogallo e loro andarono a casa e rimanemmo nel guado, chiamiamolo. Signor Mazzola, invece per fare semplicemente un paragone tra com'era la vita di chi giocava in nazionale allora e di chi gioca oggi, no? Oggi noi vediamo una parte dei commenti dei mondiali sono i ritiri, questi posti magnifici e i voli. Voi dove stavate ad esempio in Inghilterra? Si ricorda? Stavate in un albergo? Sì, eravamo in un albergo in una periferia, adesso non mi ricordo quale, che era sì buono, ma non cose incredibili. Era un altro mondo allora, in pratica. Quante conferenze stampa facevate, ad esempio? Non esisteva conferenza stampa allora. Allora i giornalisti stavano, vedevano l'allenamento, poi quando uscivamo dal campo intervistavano chi volevano e alla fine intervistavano l'allenatore, non era come oggi organizzato. Senta, invece le manca mai, insomma lei comunque insomma sta bene, è sempre in ottima forma, la vediamo sempre in televisione, le manca qualcosa di quella vita, di quantomeno di movimento, di gioco? Guarda, proprio la... Io non ho mai capito perché sentivo poco la nostalgia del campo. L'ho capito dopo molti anni, perché mi sono svegliato una notte di soprassalto perché c'era l'allenatore che non mi voleva far entrare in campo, mi voleva levare dal campo e io non volevo uscire. E da lì ho capito che, e poi dopo è successo altre volte, che io di notte ho continuato per tanti anni a giocare al pallone, per cui non ho sentito la mancanza del campo, come sentivo che molti miei compagni la subivano. Però no, perché io giocavo. Aveva un'attività onirica calcistica fortissima. Sì, sì, sì. Sì, sì, di notte giocavo, partita in notturna. Signor Mazzola, io la ringrazio moltissimo per la chiacchierata. Insomma, prima o poi rincontreremo la Corea e magari gli faremo, no? E magari ce la vinceremo, visto che anche il 2002 non è stata proprio una gran partita. Ma si vede che quando sentiamo Corea andiamo un po' in tilt, però adesso i tempi sono cambiati, i giovani sono diversi, non vanno in tilt per queste cose, quindi se li rincontriamo attenti alla loro corsa, ma la tecnica è nostra, l'inventiva è nostra, li battiamo. Grazie ancora Sandro Mazzola, arrivederci, in bocca al lupo. Grazie, buongiorno. 349-238-6666. Pietro scrive: la mia Corea sono state le scuole superiori, bocciato 3 volte, alla fine feci il recupero 3 anni in 1, fu una cosa umiliante e imbarazzante, vorrei cancellare quei 6 anni di vita. Oggi è un lavoro che mi piace, per cui non è servita a nulla quella scuola, è stata la mia Corea, ma poi ho vinto i miei mondiali. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Domani raccontiamo un'altra storia di mondiale, si parla della partita delle partite, la finale del 1982 in Spagna. Grazie soprattutto a Gennaro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.